Allora, pronti? Ai posti di partenza, via! Ma che via posti di partenza e posti di partenza? Mannaggia la miseria, io sono tornato stanco, sono distrutto, sono tornato dal lavoro. È stata una giornata pesantissima, perché ormai praticamente la realtà cambia troppo velocemente, non ti rendi conto di quello che succede. Poi stanno tutti con sto cellulare che se guardano le notizie, l'informazione, che ce sarà su sti cosi non lo so manco io. Qua non mi pare vero, anzi mi sembra incredibile, ci stanno le persone che ti ascoltano. Comunque io poi la sera tardi torno a casa e mi trovo completamente vuota la casa. Io una volta ci avevo Katia, la compagna mia, era meraviglioso. Beh, meraviglioso non lo so mica. Comunque, sai, in casa ci stanno degli equilibri. Mentre il marito si guarda, perché una volta il marito leggeva il giornale, adesso invece oggi guarda internet, si scorre le notizie, si mette a guardare tutto quanto. E diciamo che ci sono degli equilibri da tenere, perché il 50% delle volte diciamo che c'ha ragione la moglie, il 50% delle volte c'ha torto il marito e il compagno, mentre guarda le notizie e si distrae, mentre lei invece non se lo fila te pezza, o meglio, lui non se fila te pezza lei. Poi quando c'è da prendere una decisione, cosa succede? Quando c'è da prendere una decisione succede niente po' di meno che la moglie, in come dire, quando si è in accordo decide il marito, quando si è in disaccordo decide la moglie. Però il marito ha sempre l'ultima parola. Hai ragione, cara. Beh, insomma, diciamo che io sono scoppiato in tutti i sensi, distrutto dalla stanchezza, da questa giornata che mi ha martoriato, però è anche vero e bisogna anche riconoscere che è scoppiato nel senso che non ho coppia, cioè non c'ho praticamente coppia in questo momento, sono disperato, non trovo nessuno. E quindi praticamente questo significa che amore scoppiami, se sto scoppiando, amore scoppiami, ma ho capito che scoppiandoti io scoppierò. E lei potrebbe essere su quell'aereo in questo momento. E quindi niente, non mi resta che mettermi a guardare il telegiornale, ma non c'ho voglia, perché è molto più facile rimanere attaccati su sto telefonino. Quindi mi metto a guardare, scorre tutte quante le notizie, ecco, lo vedi? E ci siamo, unioni civili, sempre le stesse notizie, si parla sempre delle stesse cose, unioni civili. Papà, ma che vuol dire civili? Ma perché le altre unioni sono civili o sono incivili? Ma perché le altre si chiamano incivili oppure non si chiamano per niente, non si chiamano in nessun modo? No, te lo spiego io, piccolino. Ah, piccole, non è che sono civili o incivili, sono tutte incivili, nel senso che se scannano tutti le botte, le coppie se scannano le botte, basta vedere le notizie che ci stanno de cronaca in giro, cose allucinanti, perché stiamo tutti attaccati su sto cellulare, basta vedere Facebook e escono fuori le notizie dei giornali. Ecco qua, per esempio, donna spenna, anzi strozza un pollo da spennare. E chi si arrabbiano? Si arrabbiano i maschilisti o si arrabbiano animalisti? Bella domanda questa. Questo era un pollo da spennare. Lei ha dichiarato al commissariato: sì, sono stata io, perché lui mi faceva immagini e mi riprendeva mentre facevamo scene di sesso nuda. Scene di sesso senza essere nuda è un po' difficile effettivamente. Comunque, cosa è successo? Che lui ammazza quante bussa via, brutto come in corpo lui, veramente. E lui si è giustificato dicendo: io volevo fare semplicemente delle immagini di nudo artistico, ma si fa presto a di nudo artistico, c'è sta nudo artistico e nudo artistico, fammi vedere come lei. Vabbè, ma in fondo siamo fatti tutti quanti le cellule, dai. Beh, questa era venuta proprio male però, Diciamo che sì, la ragazza, beh, le immagini di nudo, beh, perché a volte c'è il nudo, è nudo, diciamo, c'è sta quella che dice: ammazza quanto è bella, questa ma la farei. C'è sta il nudo che dice: ma che te sei spogliata a fa? Insomma, alla fine si parla sempre di sesso, sti giornali scorrono sempre su ste notizie. Vabbè, senti, io devo cominciare a pensare di prepararmi la cena. Vediamo un attimo, oh, un'altra bella notizia. Dunque, sto attaccato a sto cellulare, il New York Times dichiara che non bisogna mai mangiare mentre si stanno vedendo immagini di sesso sui giornali, oppure sulle riviste o sulla cartellonistica, perché questo peggiora completamente il livello di digestione. Ho capito, ma io che me mangio? Cioè, come faccio a mangiare? No, fra l'altro devo cancellare la cronologia, perché è il cellulare, cioè voglio dire, tutti i portali internet memorizzano completamente quello che noi facciamo. E certo, quindi, no, ma io non volevo dire che faccio cose assolutamente, non volevo dire questo, no, vabbè. Non volevo dire questo. Vabbè, ma adesso leggiamo qualcosa di più importante, di più interessante. Andiamo su una tematica, diciamo, più politicamente corretta, su un giornale più importante, un giornale più serio. Ecco, per darci una veste migliore. Leggiamo Repubblica, il sito di Repubblica, sì. Allora, il sito di Repubblica ci mette in prima pagina come notizia dell'ultimo secondo, dell'ultimo minuto: mai pranzare dopo le 14 e mai cenare dopo le 20, perché pare che questo faccia male dopo recenti scoperte è stato dichiarato che questo può fare male al cervello, come dire, al modo di ragionare. Adesso capite i politici cosa hanno nella testa, stanno sempre a Montecitorio che mangiano nelle ore più assurde, e quindi questo comporta, comunque qua è veramente un macello. Io sono iperstimolato da notizie, non so più come fare, cioè praticamente o come ti giri e come ti muovi sei iperstimolato, un disastro sta cosa. Devo assolutamente emanare delle energie positive, perché io ho un bellissimo gruppo di meditazione che frequento da un po' di tempo, dove in pratica mi hanno insegnato a tirarmi dietro immagini e influenze positive, energie positive. Allora vediamo, così mi dimentico, perché loro dicono non bisogna farsi condizionare troppo da tutte quante le cose che leggiamo sui giornali, perché queste cose in qualche modo rovinano il nostro ottimismo, la nostra positività. Proviamo a concentrarci su qualcosa di bello, su qualcosa di positivo. Vediamo un attimo di concentrarci su qualcosa di positivo. Mi aiuti tu a concentrarmi su qualcosa di positivo? Vediamo, allora diventerò, devo immaginare quando tocco il denaro, perché così questo comporta che il momento in cui voglio avere del denaro configurerò la potenzialità di avere in mano il denaro, e quindi mi arriverà più denaro. Vediamo, ma come arriverà più denaro? Ma ci hanno messo il 70% delle tasse, lo scrivono pure i giornali, ma quale denaro? Proviamo, facciamo che io mi concentro sull'essere felice. Sì, ce l'ho quasi fatta. No, non è possibile, stanno tutti sott'antreno, c'è sta la crisi, c'è sta il terrorismo, è inutile, non si può fare niente, è inutile, è un disastro. Vabbè, allora facciamo un ultimo tentativo, lo faccio con tutti voi. 5 secondi, 5 di silenzio totale, 5 secondi, 5 di silenzio totale, come mi hanno insegnato a me in questo centro di meditazione positiva, secondo la legge dell'attrazione, sì. Allora, eccola, arriva la positività, la sento. Ecco, adesso sono in grado di leggere qualunque notizia senza farmi condizionare dal mondo esterno. Questo è meraviglioso, è eccitante. Leggiamo, va? Allora, vediamo una notizia che hanno postato adesso su Facebook. Allora, dunque, sì, perché siamo iperstimolati, la televisione, i giornali, Facebook, internet, il PC, insomma, si sa. Ecco qua, truffa da 100.000 euro. Ma chi ce frega a noi? Tanto mica ci è capitato a noi, no? E a noi che ci importa? Tanto mica ci è capitato a noi sta cosa, stavamo tranquilli. Arrestato il guru della positività. Oh signore, hanno arrestato proprio per mio. Ma com'è possibile? Ma come, io mi ero affidato a tutta questa positività, pensavo che le cose sarebbero migliorate inevitabilmente, adesso non lo posso più fare, sono disperato perché sono stato condizionato, mi è crollato un mito praticamente, è macello sta cosa, ma come faccio, come la risolvo? Senti, vabbè, sì, ma in fondo, ma chi se ne frega, erano una massa di invasati, quando li incontravi alla fermata dell'autobus stavano sempre con sti cellulari e poi gli chiedevi come stai, benissimo, ma de che te fai, gli chiedevo io, benissimo de che, comunque... Vabbè, allora andiamo avanti. Io fra l'altro in quel centro ho incontrato anche Katia, è lì che l'ho conosciuto, l'amore mio. Vediamo un attimo. E fra l'altro a fare la denuncia è stata una certa Katia B. È proprio vero che prima o poi ti capita pure a te, perché sono le persone che conosci che finiscono sui giornali. Sembra incredibile, ma è così. E allora a questo punto io mi affido al silenzio totale. Anzi, accendo la televisione, che è il modo migliore per star zitti e spegnere il cervello. Questo è il 54esimo telegiornale di oggi. Dichiariamo che l'unico modo per contribuire al miglioramento della società è pensare individualmente di migliorarsi e di migliorare gli altri, di migliorare la società in cui viviamo. Fai qualcosa tu per primo per migliorare il posto in cui vivi e il luogo in cui vivi. Vabbè, adesso si è fatta una certa. Diciamo che lo fammo domani, cioè penso domani, perché sono il classico italiano. Ah, ma io non ci ho pensato, potevo ascoltare Radio Onda Rossa. La radio è diventato l'unico cimelio, l'ultima cosa legata al passato che magari tanto mi dà un senso di dignità. Vabbè, me ne vado a dormire, ci penso domani, va? Ciao.